Storie italiane. Le sorelle del sole. Questa è la storia di un'epoca in cui i matrimoni venivano decisi da incantesimi o battaglie con i giganti. Questa è la storia di un tempo in cui i re e le regine regnavano sulla terra e in cui si potevano ancora incontrare le famiglie della luna e del sole. C'era una volta un potente re che aveva un bellissimo figlio. Il principe aveva come miglior amico il figlio del giardiniere reale. E i due ragazzi studiavano, giocavano e mangiavano insieme tutti i giorni. Il re non era molto contento di questa situazione, ma il suo amato principe non voleva nessun altro all'infuori del figlio del giardiniere come amico. La nostra storia inizia in un fatidico giorno in cui entrambi i ragazzi correvano nei giardini e il figlio del giardiniere trovò qualcosa. Che bella corsa! Ti ho battuto! No, non l'hai fatto. Sono arrivato prima io. No, io! Ehi, cos'è questa? Sembra una piuma d'oro. Una piuma d'oro! È mia perché l'ho trovata io. No, è mia perché sono arrivato prima io. Mia? Mia? Che cos'è tutta questa confusione? I due ragazzi dissero al re tutto quanto, ma il re non poteva permettere al figlio di un giardiniere di avere la meglio sul principe. Quindi pensò ad una richiesta impossibile. Ranek, ti darò la possibilità di provare che la piuma ti appartiene. Se hai visto per primo la piuma, prima del principe, allora devi aver visto anche la gallina a cui appartiene. Quindi vai a trovare la gallina con una piuma d'oro mancante e potrai avere questa. E non tornare a palazzo finché non l'avrai trovata. Ma, Altezza! Abbastanza. Ammetti allora che questa piuma appartiene al principe? Non la voglio, padre. Lascia che la piuma sia data a Ranek. Grazie, amico mio, ma non si tratta più della questione del possesso della piuma. La lascerei volentieri a tenere a te, ma non sto mentendo. Io l'ho vista per primo. Se Sua Altezza vuole una prova di questo, io la troverò per lui. Troverò la gallina a cui appartiene. Quindi Ranek cercò la gallina in tutti i giardini del palazzo. Il principe lo aiutò. Ma non riuscendo a trovarla, Ranek decise di uscire dal palazzo per cercarla. Non andare, Ranek! È l'ordine del re. Come posso sfidarlo? Allora verrò con te. Anche questo sarà contro l'ordine del re. Così è, amico. Tornerò presto. Quindi Ranek lasciò il palazzo, chiedendosi dove avrebbe trovato una piuma d'oro in tutto il mondo. Ma... Lascia che la mia fortuna mi porti dove vuole. Ranek entrò in una foresta. Stava camminando quando sentì una voce. Ehi, dove stai andando, amico? Qualcuno ha appena parlato? Qui! Ciao, sono una volpe parlante. Una volpe parlante? Davvero? Dove stai andando? Così Ranek gli disse tutto della piuma d'oro. Perché penso di sapere dove potresti trovare la gallina con le piume d'oro. Veramente? Dove? Un po' più lontano da qui, verso est. Le sorelle del sole vivono lì. Hanno 6 galline con piume d'oro. Sicuramente la gallina di cui stai parlando deve essere una delle 6. Ti condurrò da loro. Quindi la volpe portò Ranek nel cuore della foresta, poi su per le montagne, finché non raggiunsero la cima di una montagna davvero alta. Questa cima brillava come se fosse racchiusa in un'aura dorata. Qui è dove vivono le sorelle del sole. Andiamo e chiediamo loro di darci una delle galline. Quindi la volpe e Ranek entrarono nel castello. Le porte erano aperte ed entrarono nel cortile. Lì videro 6 galline d'oro che mangiavano con gusto del grano dorato. Ranek individuò quella a cui mancava una piuma. Eccola là! Bene, cerchiamo di trovare le sorelle. Entrarono nel magnifico castello d'oro. All'improvviso sentirono una voce. Tu chi sei? E cosa ti porta nel mio castello? Salve, mia signora. Mi chiamo Ranek e questo è il mio amico Volpe Parlante. E vuoi la mia gallina d'oro? Sì. Come fa a saperlo? La mia sorellina è stata rapita da una banda di giganti. Fa tutto parte di una profezia, secondo la quale colui che la riporterà dal regno dei giganti la sposerà quando entrambe saranno adulti. Perché solo un uomo con il cuore d'oro può svolgere il compito. E sapremo che è l'uomo col cuore d'oro perché verrà qui con una piuma d'oro, alla ricerca della gallina a cui questa piuma appartiene. Dovrò sposare sua sorella? La sorella del sole quando sarò grande? Solo se riuscirai a salvarla dal regno dei giganti. E dove troverò il regno dei giganti? Non so se la sposerò, ma ti aiuterò cercando di salvarla. Io lo so, vieni con me! E i giganti rapiscono soltanto o possono anche uccidere? Assicurati solo di non finire sotto i loro piedi. Poi dovresti essere abbastanza sicuro. Voglio dire vivo, voglio dire ok. Quindi la volpe portò Ranek al castello dei giganti. Si sentiva una forte musica e rumorose danze all'interno. Strisciarono facilmente nel giardino, nascondendosi dietro l'erba gigantesca, e sbirciarono attraverso l'enorme finestra. I giganti stavano ballando e la sorellina del sole era seduta su un tavolo su un piccolo trono, arrabbiata e infelice. Non era più grande del pollice di un gigante e aveva una stella sulla fronte che brillava come il sole. Ranek pensò ad un piano e lo sussurrò alla volpe. Dai, sorellina del sole, balla con noi! Mai! Balleresti con me, mia signora? Mi puoi mettere sul tavolo accanto a lei? Mi concederesti un ballo, mia signora? Bene, la sorellina del sole era a conoscenza della profezia. Accettò di ballare con Ranek e quando tutti i giganti furono assorti nel guardarli danzare, la volpe balzò improvvisamente fuori dalla finestra e spense tutte le candele nella sala, in modo tale che fosse immersa nell'oscurità. Mentre i giganti si chiedevano cosa fosse successo, la stella sulla testa della bambina illuminò loro la strada. Ranek e la sorellina del sole corsero fuori dalla sala e sfuggirono dal regno dei giganti. Di ritorno al loro castello. Hai realizzato la profezia. Grazie. Tra 10 anni, quando sarete cresciuti tutti e due, mia sorella verrà a casa tua e ti riporterà qui, dove vi sposerete. Ranek tornò nel suo regno con la gallina, con la piuma d'oro mancante, e riferì tutta la sua avventura al re. Cielo! Ti sposerai con la sorella del sole? Non so se ci innamoreremo quando diventeremo grandi. È una profezia. Sei uno con il cuore d'oro. Mentre i due amici conversavano animatamente, il re era disgustato. Pensava che solo un principe fosse degno di sposare qualcuno di magico e mistico come la sorella del sole stesso. Quindi decise di rovinare il matrimonio se fosse davvero venuta nel loro regno dopo 10 anni. Passarono 10 anni. Ranek e il principe erano ormai cresciuti fino a diventare giovani uomini coraggiosi, saggi e belli. Il giorno dell'arrivo della sorella del sole si avvicinava. Finalmente un giorno, mentre il re, il principe e Ranek si esercitavano a tirare con l'arco nel giardino, il cielo si riempì di una luce dorata. Sussultarono e quando la luce divenne un po' più fioca, videro un carro d'oro volare in aria e poi atterrare nel palazzo. Ne uscì la più bella fanciulla che fosse mai stata vista, con una stella in testa. Ranek, la sorellina del sole! Il principe corse da lei con un esercito di servi e guardie per darle il benvenuto nel palazzo. Il re si accigliò. Quindi, sei la fanciulla che Ranek ha salvato dai giganti? Sì. Mi dispiace, ma trovo difficile credere a quella storia. Padre! Come re di questo paese è mio compito accertare la verità. Come può una donna potente come te aver bisogno di aiuto per essere salvata? Devo sapere se la storia è reale. Ma, come puoi ben vedere, lei è qui, padre. Di quale altra prova hai bisogno? È successo tutto 10 anni fa, Altezza. Come possiamo provarti la verità adesso? Ti assegnerò 3 compiti quasi impossibili. Se li completerai, allora sarò convinto. E di cosa si tratta? Il primo compito è quello di abbattere l'intera foresta che circonda il mio paese in una sola notte. E poi, quando sarò certo che sia stata effettivamente abbattuta, dovrai rimetterla al suo posto la notte successiva. Sei la sorella del sole. Sicuramente sarai in grado di farlo. Poi, voglio che prosciughi tutti i laghi e gli stagni nel mio paese e la notte seguente li riempirai di nuovo. E terzo, voglio che bruci tutti gli uccelli nel cielo con la luce della tua stella e poi il giorno successivo dovrai riportarli nuovamente in vita. Padre, questo è crudele. Sto chiedendo di rimettere tutto a posto. No? Non faccio parte del tuo regno, quindi non sono obbligata a soddisfare la tua richiesta, Altezza. Ma Ranek fa parte del mio regno e non puoi portarlo con te finché io non lo permetterò. Che tipo di re vorrebbe abbattere la sua foresta, prosciugare i suoi stagni e uccidere i suoi uccelli? Sto chiedendo anche che tutto sia rimesso a posto, no? Ma per quanto riguarda il dolore che ognuno di loro patirà, gli alberi quando verranno tagliati, gli stagni quando verranno prosciugati e gli uccelli quando le loro ali saranno bruciate, come puoi deliberatamente causare dolore a qualcuno, anche solo per un minuto? Soddisferò il tuo desiderio, ma a modo mio. Fa sì che tutta la legna in questo palazzo sia fatta a pezzi. E fa sì che il palazzo stesso bruci. E fa sì che gli uccelli senza vita nel palazzo diventino vivi. Ferma, ferma! Sto solo facendo quello che hai chiesto, Altezza. Il mio palazzo sarà rovinato. Per favore, fermati, ti credo. Non mi importa se mi credi. Il sole si prende cura della natura e non la distrugge per dimostrare qualcosa ad un re arrogante ed egoista come te. Ferma! Chiedo perdono per conto di mio padre! Per favore, fermati! Possiamo andarcene adesso? O sei ancora legata alle leggi di questa terra? Mi dispiace. Ti lascio andare. Mi dispiace tanto, Ranek. E mia signora, la tua rabbia era completamente giustificata. Vi auguro una bella vita insieme e ora vi lascio un momento da soli. Conosco questa profezia, ma dobbiamo sposarci solo perché qualcuno lo ha detto? No. Intanto vieni nella mia terra e poi, se decideremo di sposarci, beh, allora ci penseremo. Se la profezia è vera, ci innamoreremo. Sì, è esattamente quello a cui stavo pensando. Quindi, Ranek e la piccola sorella del sole partirono per la sua terra sul suo carro d'oro. Non sappiamo se alla fine si sono sposati, ma sicuramente avevano insegnato al re di questo paese una lezione che non avrebbe mai dimenticato. Rinunciò ai suoi modi arroganti ed egoisti con l'aiuto del suo nobile figlio e la gente della sua terra visse per sempre felice e contenta.